Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, finalmente insieme. Siamo qui pronti per voi e siamo pronti ad andare a sentire i temi di cui ci occupiamo oggi. Al rientro punta sulla prevenzione, la chirurgia che salva il fegato. A scuola di gusto e di salute. Tempo di rientro, tempo di ripresa, le pagine della nostra agenda iniziano ad affollarsi di impegni, scadenze, insomma, eccoci qui di nuovo ad organizzare le nostre giornate e quelle dei nostri bambini. Anche loro si stanno preparando a riprendere il ritmo, il primo giorno di scuola è proprio dietro l'angolo e noi vogliamo mantenere il più a lungo possibile i benefici delle vacanze e prepararli al meglio alla ripresa. Gli inizi, lo sappiamo bene, sono sempre un po' faticosi, ci vuole un po' di pazienza, ma direi anche un po' di attenzione e qualche controllo. Quindi oggi ci affidiamo ai consigli del professor Luca Bernardo, direttore della divisione pediatrica dell'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano, che è in linea con noi. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno a voi, grazie. Professor Bernardo, sono tornati belli, riposati, insomma le vacanze anche proprio li hanno cambiati, sono cresciuti, diventati grandi, più autonomi. Sono belli e riposati anche perché oltre alla vacanza sono finalmente potuto stare con i propri genitori, parenti e approfittare, spero, dei nostri mari e delle nostre montagne. Però tuttavia a volte anche il fatto che siamo belli e riposati a volte possono nascondere qualche piccola problematica. Che non va sicuramente trascurata. Ogni mamma sa che l'autunno è il periodo in cui si pianificano i controlli dal pediatra, ma è quello che ci chiediamo, è sempre necessario portarli dal dottore a fare un tagliando di fine estate? Le uniche persone che frequentiamo sono i nonni e la pediatra, perché per qualsiasi cosa devi chiedere alla pediatra. Non hai autonomia nelle scelte. Mangia troppo? Chiama la pediatra. Mangia poco? Chiama la pediatra. Mangia giusto? Chiama la pediatra. L'altro giorno si è rotta la lavatrice. Amore, chiama la pediatra. Professore, è vero. Non so se lei è mai stato contattato per riparare una lavatrice, una lavastoviglie, ma in effetti ci sono molte mamme che non muovono foglia senza che il pediatro non voglia. Teresa Mannino, come sempre, strappandoci una risata, ci pizzica sul vivo. Diciamo che rispetto al non si vuole foglia senza il pediatra che non voglia, farei una battuta dicendo non tutta l'erba è un fascio. È vero, molto spesso le mamme ci chiamano, ci contattano, ma soprattutto oggi credo le mamme magari che hanno bambini sotto il primo anno di vita, perché oggi sono diventate molto più critiche in senso positivo e molto anche più aggiornate e più attente. Quindi benvenga le mamme che si alleano con il pediatra. Io parlo di alleanza perché è giusto che tra mamma e pediatra si formi un buon team, ma ciascuno deve mantenere il proprio ruolo. Poi a mano che il bambino cresce, lo sappiamo, gli incontri si diradano, il legame si allenta ma non si perde, e come diceva lei, sino a quando il bambino è piccolo, sino all'anno, ai 2 anni, il pediatra è molto gettonato. E noi proprio, professore, vogliamo iniziare ad occuparci dei bambini sino ai 2 anni. Che cosa deve controllare una mamma? Credo sia importante avere proprio poche ma chiare indicazioni, perché non è certo il caso di fare tutto e subito, insomma abbiamo tanto tempo davanti. Ricordiamo che magari, ritornando alle vacanze, che vuol dire settembre, spesso i bambini, non tanto magari con i genitori perché impegnati col lavoro, ma spesso con nonni, parenti, con la babysitter, e magari i genitori raggiungono il weekend, saltano magari quei controlli necessari o importanti precedenti all'estate, quindi sono quei 3 o 4 mesi nel quale non si sa tanto se è cresciuto, quanto davvero è cresciuto, sia in termini di peso che di altezza. Quindi sicuramente il peso e l'altezza sono dei buoni indici di benessere. Ci impresta un po' il suo occhio clinico? Quali sono dei segnali, dei sintomi, degli atteggiamenti del bambino che dovrebbero invitare la mamma e i genitori a consultare il medico? Ecco, per esempio, al ritorno dell'estate a volte può capitare, questo è un consiglio, che sulla cute, quindi sulla pelle, i bambini possano avere delle piccole crosticine. Queste crosticine, soprattutto se sono diffuse, vanno fatti vedere, perché a volte è questa impetigine, cioè questa infezione cutanea, che spesso si sprende al mare. E invece magari noi possiamo pensare, ma era un po' di sabbia, si è grattato, invece ecco, questi puntini, ecco, mi raccomando. Anche questo. L'altra cosa importante, che a volte sfugge un po' alle mamme e ai papà, ma proprio perché guardano il bambino nella sua interezza, è il loro movimento, la loro postura e soprattutto il loro atteggiamento nel stare seduti dritti o meno dritti, diciamo così, tra virgolette. Quindi attenzione se magari i bambini possono avere della scogliosi, possano avere problematiche a livello della corona e spesso si accorgono magari quando il bambino è un po' più grande e allora bisogna fare magari delle terapie o delle cose d'urto che magari sono anticipabili e controllabili. Professore, io salirei, terrei proprio come fil rouge l'età dei nostri bambini e mi occuperei dei bambini tra i 2 e i 5 anni. Stiamo parlando di bambini che sono autonomi, a volte fin troppo, sono degli esploratori in erba, sempre in movimento. Lei accennava all'importanza di controllare la postura, come il bambino sta seduto e naturalmente anche come cammina, come si muove, come interagisce con l'ambiente. Questa è un'età molto delicata. Quali sono i controlli da fare al ritorno delle vacanze? Ecco, sicuramente quello pediatrico che possa valutare non solo, diciamo, l'aspetto clinico, perché ovviamente, come dicevamo prima, il bambino abbronzato, magari anche un po' più fatto fino a che magari era la partenza un po' più magro, un po' più emaciato. Ricordiamo che l'area delle città o delle grandi città non è proprio un toccasana per molti bambini. Va sempre valutato quindi questo, ma va valutato anche il cuore, l'addome, i polmoni, la cute. E come dicevo, soprattutto i bambini non solo sotto i 2 anni, ma anche di questa età di cui lei faceva riferimento, la postura è importante e fondamentale, perché ovviamente dopo i primi anni di vita iniziano a camminare, a muovere, a correre, e iniziano a utilizzare anche un gioco ludico, anche di movimento più veloce, nel quale magari mettere male o bene i piedini, quindi una malposizione dei piedi oppure qualcosa di patologico, quindi la colonna, quindi la postura, tutte cose che possono essere utili conoscere prima quando ci fossero problemi piuttosto che trovarsi al problema magari quando sono più grandi. Non abbiamo ancora parlato di occhi e di denti. La visita dal dentista e quella dall'oculista viene sempre più anticipata, almeno rispetto alle precedenti generazioni. Professor Bernardo. Sì, vale la pena comunque nei primi anni di vita che almeno 1-2 volte l'oculista possa certamente vedere e valutare non solo la visita oculistica, quindi gli occhi, quindi la visione, ma anche il fondo degli occhi. Perché a volte ci possono essere cose non visibili all'occhio, ma che l'oculista, il bravo oculista, guardando il fondo dell'occhio e dilatando la pupilla, riesce a vedere. I denti ovviamente è fondamentale. Noi diciamo che la prevenzione dei denti parte dal 6° mese in poi, fino a che non si ha l'ultimo dente definitivo, quindi parliamo ormai di adolescenza. Vogliamo aprire una parentesi sulle vaccinazioni, perché con la scusa delle vacanze alcuni genitori magari hanno rimandato l'appuntamento, ora tocca recuperare, si può recuperare? Direi di sì, questo capita che molte mamme magari prima di partire tendenzialmente tendano a saltare le vaccinazioni, diciamo quelle sia obbligatorie che non, perché il pensiero è sto partendo, è vero che sono in Italia, non sono all'estero, è vero che un pediatra lo trovo, un pronto soccorso c'è sempre. Però se gli viene la febbre, se gli viene, vero. La cosa migliore appunto è al ritorno, quindi ai primi di settembre, mi auguro almeno che siano i primi di settembre, il rientro di tutti i bambini, di chiamare e contattare l'ASL e concordare con appuntamento e orario la prosecuzione delle vaccinazioni. Che venga fatta un mese prima o dopo, più o meno, non c'è nessun problema. Quindi un messaggio assolutamente tranquillizzante. Assolutamente. Professore, abbiamo parlato dell'alleanza tra mamma e pediatra, scherzando un po' con le battute di Teresa Mannino, ma è soprattutto, credo, che sia col bambino che si gioca la relazione, specie da quando è in grado di raccontare e di raccontarsi. È un rapporto di fiducia che si conquista con gli anni, lei me lo confermerà, ma che può davvero, io credo, essere un buon esempio giocato, se giocato bene, di comunicazione tra medico e paziente. Ora so perché mi sento male. Io ho lo spunk. Spunk. Fifi, ti senti spunk. Male? Spunk. Devi stare veramente male. Che cos'hai, piccola? Una malattia pericolosa, dottore. Lo spunk. Lo spunk? E che spunk. Mi fa male qui e dappertutto. E poi, dottore, quando mi addormento non mi si chiudono gli occhi. Beh, allora può essere una cosa grave. E ogni tanto mi viene da fare. Capisco. Ora sdraiati su quel lettino, ti devo visitare. Va bene. Io scommetto che sei molto brava a fare le linguacce, non è vero? Sì. Bene, allora fanne una a me. Di a. Grazie, cara, basta così. Adesso apri il primo bottone del vestitino. Devo sentirti il cuore. Ecco, brava. Suona bene, dottore. Sì, certo, piccola. Tu hai un battito normalissimo. È meraviglioso, allora sono sanissima. Sì, stai pure tranquilla. Insomma, Pippi calze lunghe, sana come un pesciolino. Professor Bernardo, però alcuni bambini vedono proprio la visita dal pediatra come un problema serio. Insomma, piangono, non ne vogliono sapere. Come si prepara un bambino alla visita? La mamma e il pediatra devono avere una grande alleanza, ma ancor più il bambino quasi deve sceglierlo il suo pediatra. E quindi quando il bambino va dal pediatra, la mamma deve sempre avvertirlo, dirgli dove sta andando, quello che si farà. Professore, abbiamo sentito che nell'estratto che il medico auscultava il cuoricino di Pippi Calzelunghe. Questo è un controllo di routine e oltre al cuore, che cosa deve controllare il pediatra? Io insomma la sto girando lunga, ma vorrei sapere da lei come si svolge e quanto deve durare una visita fatta per bene. Beh, io credo che una visita fatta correttamente deve durare almeno mezz'ora, perché se non si conosce ovviamente il bambino, bisogna capire tutto quello che è l'anamnesi, sia della famiglia che del bambino che non si è conosciuto. Qualora invece lo si conosce, ovviamente è più rapida, ma il tempo che si sveste, il tempo che si gioca, perché deve essere un gioco la visita, non deve essere un momento di paura o di spavento. Il cuore è certamente un momento importante, una valutazione importante, perché ricordo che per esempio ci sono delle patologie cardiache che compaiono certamente alla nascita, ma compaiono per esempio secondo me anno di età, faccio riferimento al difetto interatriale, ma ricordo anche che ci sono i cosiddetti soffi docenti, che non creano nessun problema, ma ovviamente vanno indagati e rassicurati i genitori e soprattutto i bambini più grandi, che non è nulla e soprattutto non impedirà di fare sport, quello che nella loro vita voglia di fare. L'apertura delle scuole ahimè è dietro l'angolo e noi accompagniamo i bambini a scuola e parliamo di quelli che frequenteranno le elementari. Entrano professori che sono dei pulcini, escono quasi che sono dei ragazzini. Il pediatra in questa fase di età lo vedono un pochino di meno rispetto ai più piccoli, ma lei dottore, professore, che cosa consiglia? Credo che un bambino, superate diciamo le classi elementari o le elementari, credo che stando ovviamente bene, quindi parliamo di un bambino che fisiologicamente, a parte qualche influenza, non ha particolari problemi, credo che una volta l'anno, anzi sicuramente una volta l'anno, va controllato con una visita molto accurata, prendendo i parametri staturoponderali, quindi altezza e peso, messi su tutte quelle che sono le curve di crescita, e poi tutta la parte ovviamente clinica, neurologica e motoria. Controllare ovviamente anche il lessico, quindi vedere se parlano, quante parole dicono. Professor Bernardo, e per i ragazzini che iniziano le scuole medie, quindi sono ormai dei veri e propri ragazzini, no? L'adolescenza inizia sempre prima, anche in questo caso dei controlli che riguardano il peso, l'altezza, ma anche delle indicazioni per uno sviluppo, no? Equilibrato di mente e di corpo. Il pediatra può anche suggerire l'attività sportiva più adeguata, ad esempio. Direi di sì, è fondamentale che il pediatra sia anche in questo caso l'amico del ragazzo e quindi lo aiuto anche dal punto di vista, diciamo cosiddetto psicologico, ma anche dal punto di vista di quella che può essere la scelta migliore sportiva per il suo corpo, per la sua mente, perché ovviamente il corpo e la mente vanno di pari passo. Ricordo, come diceva lei, parlavamo di ragazzini che oggi sembrano grandi. Una battuta, a volte noi visitiamo dei bambini che io li devo far, dei bambini, dei ragazzini di 14-15 anni che dobbiamo far sedere nel letto perché sono più alti di noi, quindi per dire oggi come è cambiata la generazione. Sono grandi ma restano piccole, hanno bisogno comunque degli adulti di riferimento e di essere un po' accompagnati, non crede professore? Assolutamente sempre, io credo che il bravo adulto, il grande adulto sia quello che è presente costantemente ma non in senso di oppressione o oppressivo nei suoi confronti. Il ragazzo deve fare le sue scelte, ovviamente accompagnato da quello che è il suo carattere, dalla sua educazione e soprattutto dai propri genitori. Poi però bisogna dare anche a loro la libertà. Professore, ad un certo punto dobbiamo salutare il pediatra ed è quello che devo fare io ringraziandola per il tempo e soprattutto i consigli che ci ha dedicato. Ma i nostri figli a che età salutano il pediatra? E il limite di età è inderogabile oppure ci sono degli strappi? Diciamo che idealmente il pediatra visita da 0 a 17 anni, però è vero anche che molto spesso oggi le mamme che magari hanno il loro medico in famiglia, anche dalle classi elementari in poi, portano a volte il proprio ragazzo o ragazza dal medico di famiglia. L'importante, indipendentemente che sia pediatra, che sia medico di famiglia, è che è fondamentale quello che dicevamo prima, alleanza tra il genitore e il pediatra, ma soprattutto un rapporto di amicizia amichevole e anche a volte di consiglio col proprio bambino, ragazzo che cresce. Professor Bernardo, grazie per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro, buone visite. Grazie a lei, arrivederci. E dal pediatra passiamo al medico di famiglia, in linea con noi il dottor Carlo Gargiulo. Dottore, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno agli ascoltatori. È lei che si occupa di chi per età anagrafica non può essere più considerato un ragazzo. Esattamente, ho sentito le parole del professore, le condivido pienamente. La cosa bella è che quando ci può essere questa alleanza fra il collega pediatra e il medico di famiglia per questo continuum nell'assistenza del giovane, del ragazzo che piano piano diventa un giovane e che trova sempre comunque un prezioso alleato, prima nel pediatra e poi nel suo medico di famiglia, quindi un'ottima alleanza. Dottor Gargiulo, allora lei invece deve occuparsi di noi abbronzati e floridi, per usare un eufemismo, così molti di noi tornano dalle vacanze. Il maialino ben rosolato, sei pronto? Grazie a lei, ma adesso basta con gli arrosti. Io e le mie signore aspettiamo gli umidi, fagioli col salsicce. Spuntature dei maiali. Sì, in attesa che cuocia, basta. Le pappardelle sono pronte. Grazie. Ci andrebbe una tabella cucchiata dei fagioli? Buona. Adotto, io non entro più nell'ascensore. Nemmeno con le borse piene della spesa. Siccome sto al quarto piano e mi è diventato un tribolo, qui i casi sono due: o allargano l'ascensore o mi stringo io. Dottore, allora l'ascensore non si allarga e noi no. Hai, mi ha colto la sprovvista, no, Nicoletta, complimenti. Allora, dove andiamo? Allora, non in ascensore, magari iniziamo a fare le scale, può essere già una buona idea. Ma lei dove ci porta? Davanti allo specchio, sulla bilancia o andiamo allora direttamente dal medico? No, prima di stiamo andare dal a medico casa. Passiamo davanti allo specchio, sì. E prendiamo il nostro metro da sarta, quello che io consiglio di tenere vicino al comodino perché la mattina ci fa comodo per misurare la circonferenza di vita, cominciamo a vedere se questa è aumentata e ha superato i canonici 88 e 104 che sono le misure per la donna e per l'uomo e quindi se abbiamo già un po' più di grasso al giro vita che comincia a preoccuparci. Poi saliamo sulla bilancia perché chiaramente questo è l'altro elemento, sapevamo quanto pesavamo prima di partire, prima di andare in vacanza, vediamo quanto pesiamo al ritorno dalle vacanze e decidiamo che cosa dobbiamo fare per iniziare un percorso che ci riporti in forma. Senza buttarci troppo giù, perché sennò con questa cosa del allora, peso, io, vero? Io racconto sempre questa cosa e dico, attenzione, perché il chilo che perdete in un giorno lo riacquistate in un'ora, quello che perdete in una settimana lo riacquistate in un giorno, quello che perdete in un mese probabilmente non lo riacquistate più. E quindi questa è una cosa fondamentale. Anche perché il centimetro della sarta non sgarra e sulla bilancia possiamo dire no, ma ero nell'altra bilancia, pesavo così. Invece lì i numeri cantano. Adesso noi ci fermiamo per andare a sentire le informazioni dei mercati finanziari, il meteo e poi torniamo subito dopo insieme con il dottor Carlo Gargiulo. A tra poco. Eccoci qua, siamo tornati e in linea con noi abbiamo il dottor Carlo Gargiulo e con cui facciamo un po' un bilancio di fine estate. Abbiamo misurato la circonferenza addominale, è un pochino, si sta allontanando dagli 88 e 104 centimetri canonici, quelli suggeriti dai medici. La bilancia e l'ago si sposta leggermente, ma il dottor Gargiulo, dottore me lo conferma, vero, ci ha detto attenzione, dobbiamo dimagrire un po', ma con calma. Con calma, esatto, questa è proprio la regola fondamentale. Allora cominciamo a fare delle porzioni un pochino più piccole, siamo abituati alla porzione nostra standard, leviamo una parte di questa porzione e prendiamo l'abitudine, ci alziamo di tavola, andiamo in cucina, buttiamo quel po' che abbiamo levato e torniamo a tavola. Questo a cosa ci serve? Intanto a capire che mangiamo troppo e che sprechiamo più mangiando che buttandolo e quindi ci fa capire che il nostro portafoglio soffrirebbe meno. Due, ci abitua all'idea che la nostra sovralimentazione è più dannosa che buttare via il cibo, quindi questo è un elemento importante, cominceremo a regolare le nostre porzioni nel modo più giusto. Non priviamoci di nulla, in realtà non ci sono alimenti di cui dobbiamo dire no, mangiamo un po' di tutto ma poco di tutto, prediligiamo la verdura, la frutta, un pochino di carboidrati e anche ovviamente un po' di carne rossa che può aiutarci per quelle piccole forme di anemia che soprattutto nelle donne sono frequenti. Ci togliete i fuoripasto, quella bella focaccia di metà mattina dopo il bagno ad esempio. La sostituiamo con un bel piatto di frutta. Ecco, l'happy hour. che fa tanto vacanza, vedersi con gli amici, no? Dopo una giornata di mare, una camminata in montagna per bere qualcosa, ecco lì ci dite attenzione, una volta di meno. Esattamente. O solo una volta alla settimana. La cosa che ha detto molto bella è che se noi l'happy hour lo facciamo in montagna con una camminata, possiamo tranquillamente farlo perché avremo già consumato le calorie che ci serve di consumare e quelle che assumiamo non vanno in più. Proviamo a fare un happy hour, ad esempio a Milano, facendo una passeggiata più lunga, non la passeggiata per negozi, Lei parla a me, Lei parla a me, parla di negozi e lo so. Va bene, senta però, dottore, l'effetto vacanza ci rende tutti un pochino più rilassati, anche lenisce, cancella molti acciacchi e spesso si allentano anche un po' i controlli che si rimandano appunto a settembre, ma magari poi uno si dimentica del piccolo sintomo che ha avuto, a cui non ha dato tanto peso. Io vorrei che lei ci aiutasse a capire quali sono i controlli da fare, soprattutto quali sintomi sono da a cui prestare attenzione se si sono verificati durante le vacanze a cui non abbiamo dato peso perché sono passati, ecco. Certo, il sintomo cardine a cui dobbiamo dar peso è sicuramente se abbiamo avuto un dolore al petto, un dolore al centro del petto, magari un radiato un pochino verso il braccio, che è venuto, che so, una sera dopo che siamo stati un giorno intero al mare, abbiamo faticato un pochino di più, abbiamo fatto una partitella a tennis un po' più impegnativa. Ecco, quel doloretto che è comparso, che poi magari è andato via, è una spia importante, non trascuriamolo. Un elettrocardiogramma, sia un elettrocardiogramma di base che sotto sforzo, potrebbe salvarci la vita, quindi è un dato importante da tenere presente. Potrebbe però anche essere, ad esempio, una gastrite che si sta affacciando, un pochino un'infezione da Helicobacter pylori, quindi anche lì un controllo con un banalissimo esame del sangue e possiamo escludere un altro problema che potrebbe diventare pericoloso col passare del tempo. Poi magari approfittiamo, se ancora abbiamo qualche giorno prima di riprendere i ritmi pieni, per fare un controllo degli esami del sangue, gli esami di routine, forse era dall'anno scorso che non li facevamo, rivediamo l'azotemia, la glicemia, la funzionalità epatica, l'emocromo, insomma tutti quei dati che ci consentono poi di affrontare un inverno come Dio comanda. Ed è tempo anche di misurarsi la pressione. Esatto, nel momento in cui andiamo dal medico faremo fare il nostro controllo di pressione. Il medico ci saprà dire tutte le informazioni possibili e a quel punto ci dirà se questa pressione è normale alta e quindi dobbiamo cambiare qualche abitudine di vita, o è francamente alta e allora a quel punto pensiamo ad intervenire con una terapia adeguata. Dottore, torni presto a trovarci, io mi sento già meglio. Con molto piacere, tornerò a trovarla con il professor Borghi perché parleremo di ipertensione con lui, glielo preannuncio. Volentieri, volentieri. Grazie dottore. Grazie Nicoletta. Buona giornata, arrivederla. Un saluto agli ascoltatori. E adesso, cari amici, è tempo di voltare pagina. Il microscopio. Ci occupiamo di chirurgia del fegato e gli importanti progressi compiuti negli ultimi anni rendono le soluzioni chirurgiche contro il tumore al fegato e le metastasi epatiche adatte a sempre più un ampio numero di pazienti, in particolare l'utilizzo dell'ecografia intraoperatoria che permette interventi mirati e più sicuri. Ne parliamo oggi col professor Guido Torzilli, che è responsabile di chirurgia epatica all'Istituto Humanitas di Rozzano e docente all'Università di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei. Professore, l'epatocarcinoma e le metastasi al fegato da cancro del colon retto sono rispettivamente il tumore primitivo e quello secondario più frequente a livello epatico e la loro incidenza è particolarmente elevata. Però oggi, grazie a queste tecniche innovative, la prognosi di questi tumori è migliorata. Ma cosa ha reso possibile questa svolta? Ho accennato in apertura all'ecografia intraoperatoria, che vorrei paragonare a una sorta di navigatore satellitare che permette però al chirurgo di avere un quadro molto più dettagliato e preciso della situazione. Naturalmente questo porta numerosi vantaggi. Certo, l'ecografia intraoperatoria oggi ci ha permesso sostanzialmente di risparmiare fegato, cioè di togliere meno parenchima, parti di tessuto dell'organo che funziona, che quindi serve, e mirare la nostra azione sulla parte malata, la parte tumorale. Questo ha portato allo sviluppo di nuovi, veri e propri nuovi interventi che tendono appunto a risparmiare lo scheletro dell'organo. Il vantaggio qual è? Possiamo offrire la terapia a un maggior numero di pazienti perché possiamo trattare casi con coinvolgimenti dell'organo più avanzato, e risparmiando lo scheletro dell'organo, cioè i vasi principali, poter proporre reinterventi nel caso purtroppo si ripresenti la malattia. Questo a sua volta aumenta ancora di più le nostre possibilità terapeutiche. Questo proprio perché togliete meno fegato possibile, o solo quello che è necessario togliere, vero professore? Certo, essenzialmente è questo, grazie appunto ai riscontri che l'ecografia ci permette di trovare, quale ad esempio nuove strade che il sangue percorre all'interno dell'organo, che ci permettono soluzioni tecniche veramente innovative in questo senso. Professore, però le patologie che interessano il fegato hanno una caratteristica: non danno segni, se no proprio quando la situazione si fa seria. Questo può spiegare perché la diagnosi precoce in molti casi è difficile. Detto questo, per i tumori di cui stiamo parlando oggi, quindi l'epatocarcinoma e la metastasi epatica, è possibile individuare le categorie a rischio e quindi procedere ad un monitoraggio attento. Quali sono queste categorie e come fate a tenerle sotto controllo? Beh, le categorie a rischio per quanto riguarda i tumori primitivi, segnatamente l'epatocarcinoma, sono i pazienti, ahimè, che hanno avuto un'infezione virale da virus B e C, quindi i pazienti con un'epatopatia cronica, seguiti per questa, devono essere attentamente monitorati perché hanno un rischio maggiore di sviluppare questi noduli che fortunatamente rimangono spesso al fegato e quindi possono giovarsi di trattamenti locali e in primis della chirurgia. Per quanto riguarda invece i pazienti con metastasi, si tratta di pazienti che hanno avuto già un tumore, un'esperienza oncologica, un tumore prima delle metastasi, che sono le figlie del tumore, quindi sono già di per sé rientranti in uno schema di follow up, di monitoraggio molto attento e molto stretto, che permette di identificare le lesioni quanto prima possibile. Allora, se l'argomento è di vostro interesse, volete saperne di più, avete bisogno anche di ulteriori informazioni, vi segnalo che la chirurgia dei tumori epatici è il tema del mese dello specialista risponde di Humanitas. Andando sul sito, quindi, potrete contare sui medici dell'equipe del professor Torzilli per ricevere risposte. Come sempre, la mail di Essere Benessere è a vostra disposizione. Professor Torzilli, io la saluto, la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a lei, buon lavoro a lei. E noi adesso andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade e poi torniamo subito dopo insieme, tra poco. Mamma mia, che ricordi! Agli adolescenti degli anni Ottanta il tempo delle mele fa sempre effetto. Direi che proprio attiva i ricordi, e che ricordi, eh? Torniamo però subito al presente. Noi parliamo per l'appunto di mele perché è il loro tempo, è proprio il tempo delle mele. In linea con noi sono tornati a trovarci la dottoressa Paola Reverso, medico nutrizionista, e Andrea Ribaldone, anima del ristorante stellato di Alessandria, la fermata. Insomma, cari amici, a grande richiesta torna la magnifica coppia che tanti di voi, e io per prima, hanno apprezzato e seguito nel mese di agosto nello spazio dedicato alla scuola di cucina, proprio qui a Essere Benessere. Allora, dottoressa Reverso, buongiorno. Buongiorno e bentornata. Grazie, buongiorno. Andrea, eccoti, finalmente con noi. Ciao, buongiorno a tutti. Anzi, nuovamente con noi. Dottoressa Reverso, questa mela ne ha combinate parecchie. Ha messo zizzania fra Era, Afrodite, Atena. Ha steso Bella Lunga, Biancaneve. Ha messo nei pasticci Adamo ed Eva. Ma nonostante tutto, di lei non si può fare a meno che parlarne bene, perché diciamolo, la mela è un frutto che ha tutte le virtù. È bella, è generosa, è buona, è versatile. Dottoressa Reverso, tutti sappiamo, ad esempio, che è un frutto povero di calorie, però lo sappiamo tutti. Sappiamo che è anche molto digeribile e va bene, ma lei ci sa aggiungere qualcosa, magari qualche dettaglio, una caratteristica della mela che magari non tutti di noi conoscono o che non tutti sfruttano come dovrebbero? Beh, una cosa che forse non si dice spesso, almeno nella mia esperienza non incontro sovente, è che la mela contiene la pectina, che è una sostanza che si conosce come gelificante perché la si acquista, però purtroppo è sintetica per fare la marmellata in fretta. Sì. L'industria la usa proprio per questo, però la sostanza contenuta nella mela, quindi la sostanza naturale, ha delle proprietà molto importanti perché equilibra la flora microbica intestinale, aiuta tra l'altro nei casi in cui si soffre di disturbi gastrici. In più la mela non dà allergie, o molto raramente, infatti viene utilizzata proprio come primo frutto da dare ai bambini piccoli. Noi prima parlavamo di bambini al rientro delle vacanze, la mela. E poi la mela ha un'altra caratteristica che già la pera non ha. La mela non dà disturbi intestinali, la pera a volte nei soggetti che soffrono di colite può dare un pochino fastidio, la mela non succede mai, soprattutto se noi la sbucciamo e la grattugiamo, che già solo grattugiandola la rendiamo più digeribile. Ricordiamoci sempre, se la usiamo in questo modo, di aggiungere qualche goccia di limone perché ferma un pochino l'ossidazione, sennò sì, la mela perché diventa scura. Anche brutta, è brutta sì. A vedersi. Ma mi rendo conto che un po' di ossidazione comunque non cambia le caratteristiche nutritive della mela, altera un pochino il sapore. E ricordiamoci una cosa, che la mela più è naturale, cioè coltivata senza eccessive quantità di pesticidi e fertilizzanti, più si ossida. Ah, ecco, quindi è un po' una sorta di prova qualità. E certo. Ecco. Andrea, ma una mela in cucina vale l'altro o ci sono delle differenze? Ce ne sono alcune, le mele antiche, che un po' si vanno perdendo, che dobbiamo ricominciare a consumare. Io penso, non so, alle mele annurche oppure altre tipologie di mele coltivate ancora nelle nostre campagne, che assolutamente è giusto e buono riscoprire. Per quanto riguarda le ricette, oltre a queste varietà di mele, tra l'altro le annurche si facevano anche cuocere e venivano consigliate per le persone che avevano la tosse. Dottoressa Reverso, è vero? È vero, perché hanno una caratteristica. Tutte le mele contengono della vitamina C, ma le annurche ne contengono in quantità superiore. Ecco, vede che allora le nonne hanno sempre ragione. Ma io vorrei di nuovo tornare ad Andrea e le mele che abbiamo a disposizione, che vediamo, le Golden, le Granny Smith. Ecco, ci sono delle mele che tu suggerisci per il salato, per abbinare a piatti salati o per quelle dolci? Allora, innanzitutto diciamo sempre che come tutta la frutta, e bisogna riscoprirla non soltanto come fine pasto, ma da abbinare a tutto pasto, quindi anche con i cibi salati. Sicuramente, ad esempio, come dicevi giustamente tu, le mele, quelle verdi, belle croccanti, per un'insalata con anche frutta secca e sicuramente con pomodoro, con carote e con anche altre verdure e frutta di stagione è molto buona. Oppure, se vogliamo usare, come diciamo prima, le mele annurche e farle cuocere, un tortino a base mele in pasta fillo che trovate in tutti i supermercati senza problema, da cuocere in forno e da abbinare con un gelato alla vaniglia e rosmarino, in questo caso che aiuta la digestione, è molto buono. Però io volevo, dottoressa, ci sono delle differenze a livello nutrizionale tra una mela e l'altra? Ci sono mele più ricche di zucchero o più ricche di acqua di altre, quindi meno caloriche? Sì, direi di sì. Per esempio, qualcuno fa un po' di confusione, nel senso che la mela renetta che noi utilizziamo nei dolci, e Andrea qui mi può correggere, si utilizza nei dolci perché è meno succosa e quindi rilascia meno liquido quando noi facciamo. Non bagna la pasta, insomma. Non bagna la pasta, giusto Andrea? Andrea è svenuto, abbiamo detto una bestialità. No, è giusto. Va bene. Ecco, però questo tipo di mela, le renette, hanno meno zuccheri, meno glucosio, sono più ricche di fruttosio, per cui possono essere utilizzate intanto soprattutto per chi fa sport. Il muscolo lo utilizza molto più presto il fruttosio rispetto al glucosio, che necessita di un metabolismo un pochino più elaborato, diciamo così. E poi soprattutto per chi ha problemi di sovrappeso e per chi è diabetico. Ecco, infatti si dice sempre una mela al giorno toglie il medico di torno, ma ci sono anche delle persone che devono fare attenzione nella scelta della frutta, certo, che assumono, e anche, sì, come lei anticipava, anche nella scelta della varietà di quel frutto. Quindi, dottoressa Reverso, possiamo dire che ci sono delle varietà di mele più adatte ai diabetici? Sì, la renetta è più adatta a un paziente diabetico rispetto della classica mela verde o rossa. Certo. Io volevo parlare anche del succo della mela. Insomma, quando uno dice andiamo al succo, anche il succo della mela serve in cucina, ma serve anche così per preparare delle cose buone e salutari, dottoressa Reverso, proprio quelle che ci suggerisce lei spesso. Sì, la mela, per esempio il succo di mela, beh, in Alto Adige, in Austria, in Germania, durante la stagione delle mele, che per loro è un pochino più avanti rispetto a noi. Perché fa un po' più freddino, forse. Sì, fa un po' più fresco. E loro servono il succo di mela limpido, caldo, con la cannella, lo zenzero, ed è un'ottima bevanda. Ai bambini la si può dare tranquillamente anche durante lo svezzamento, magari non mettiamo le spezie, mettiamo un pochino di miele. Il succo di mela limpido si trova facilmente nelle erboristerie, nei negozi che vendono alimenti biologici, ma anche nella grande distribuzione, ed è un'ottima alternativa ai classici succhi di frutta che sono più ricchi di zucchero, o è assolutamente un'alternativa molto più sana di una bibita. Assolutamente, quindi andiamo di succo di mela, ma io prima di salutare voglio proprio assolutamente che Andrea ci dia una ricettina per oggi con la mela. Puoi scegliere già quella dolce mela, rosmarino, pasta fillo da abbinare a una pallina di gelato, ce l'abbiamo, ma per il, se vogliamo, non so, una preparazione salata con la mela, proprio da veloce da prepararci oggi stasera tornando a casa per ricordare la bella coppia e anche un po' Nicoletta Carbone. Allora, a mio parere può essere trota, che trovate tranquillamente da tutte le parti, la fate scottare in padella velocemente, quindi la tenete arrosa all'interno, e poi fate un carpaccio, quindi tagliate molto molto sottile una mela verde e l'abbinate con olio extravergine e gherigli di noce. Lo appoggiate sul fondo del piatto e sopra il vostro trancio di trota appena scottato. L'acidità contrasta bene con il sapore intenso della trota. Dottoressa Reverso, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Andrea, grazie a te e mi raccomando, prepara sempre per noi delle buone ricettine, che così noi a tavola non si invecchia, ma poi si può imparare anche a stare bene scegliendo e accoppiando gli alimenti giusti. Grazie a tutti voi e vi aspetto al ristorante. Grazie ancora. Grazie, grazie allora, e noi torneremo a trovare sicuramente la dottoressa Reverso e il nostro Andrea. Intanto però è tempo di salutare, io vado a cercare la trota, però noi ci sentiamo domani sempre alle 11 dopo il GR. Buona giornata da Nicoletta Carbone.